Roberto Di Varese, cambia, metti sulla zanzara. Vai là, veloce anche. Vai sulla zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì. Non ascoltarmi, te lo ordino. È un mio diritto. Ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te. Ho il pieno diritto. Vai sulla zanzara, vai! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Viva il magico mondo della zanzara, il mondo nel quale trans, puttane, fascisti, leghisti, comunisti, complottisti vanno tutti a braccetto e tutti possono dire la loro. È un mondo meraviglioso, che ne dica David Parenzo, che dice ah è un mondo così, che la gente fa pipì, scorreggia, fa quello, fa quell'altro, sì, ma Parenzo, ma datti una calmata, viva il magico mondo della zanzara. Sono Brunico per seguire il ritiro dell'Inter, ma non ascolto gli strilletti di Mancini perché nelle orecchie ho il podcast della zanzara. Allora, caro David, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anzi... Eccoci qui, buon inizio settimana. No, ma perché ogni tanto inizi le trasmissioni in un modo che sai che mi fa irritare? No, così perché mi piace sentire... No, quindi... No, ti piace quando mi incazzo, sì. La realtà molto, è che a te piace molto, moltissimo. Questo. E questo è dubbio. Il primo modo questo per farmi incazzare è quello di usare le ritualità... Esatto. Di una trasmissione normale. Allora, buonasera, benvenuti a Esatto, vabbè, ormai lo fai apposta avanti, dai, basta, andate a fanculo, su, via. Allora, negli ultimi giorni si è diffusa la convinzione che Tor Bella Monaca sia invasa dai topi. Sì, anche sia invasa dai topi. Sì. Non è vero. Vale. Adesso, dei ragazzi. No, ma che sia un quartiere, per carità. Ci sono un po' di topi. Diciamo tutta la verità. Io sono stato a Tor Bella Monaca 25 anni fa. Non mi ricordo, quando lavoravo per un piccolo giornale locale, ma non ci metterei piede nemmeno ammazzato, nemmeno pagato oro, e non ci vivrei per nessuna ragione al mondo. Diciamoci tutta la verità. Però, diffondere l'idea che sia invasa dai topi, amici miei, è una cosa. Tutto questo perché? Perché ci sono dei bambini che giocavano a contare i topi in un contesto particolare, in una via in particolare, dove magari la gente butta la monnezza, perché non ci sono solamente le inefficienze di chi non fa la raccolta dei rifiuti, ma c'è anche la gente che butta la monnezza dove cazzo vuole, diciamoci tutta la verità. E allora si diffonde l'idea di Tor Bella Monaca o comunque Roma invasa dai topi, che non è vero, ovviamente. Regà, ricominciamo l'elenco. Inizio da Tiziano. 12, 13. Guardate laggiù i topi. 14, 15. 16 topi, ragazzi. 23, 24. Cioè, sono 25 topi in 5 minuti, ragazzi. Vi rendete conto dello schifo a Tor Bella Monaca? E questo lo mandiamo all'ama, così vede lo schifo e glieli portiamo a casa i topi. Allora, che l'azienda per la raccolta di rifiuti di Roma sia da trasformare, sia da ribaltare come un calzino, no? Su questo non c'è dubbio. Ma che Tor Bella Monaca sia invasa dai topi e dalle zoccole, perché a Roma si dice anche zoccole, forse ci saranno altre zoccole, forse, non lo so. Però non credo. A Napoli che... si dice zoccole. No, anche a Roma si dice zoccole. Ah, sì? No? Sì, anche a Roma. Credo che quello voglia dire un'altra cosa. No, ma quello non c'è dubbio. Un'altra attività. No, zoccole non c'è dubbio, significa mignotte, eccetera. Ecco, però anche a Roma non si dice solo zoccole a Napoli, ma anche a Roma si dice zoccole. Comunque bene ha fatto la sindaca, la neo sindaca dei 5 Stelle ad andare lì su Raggi, dice, su Raggi. Sì, devo dire la verità, ha fatto benissimo, eh. È più un'esibizione, più un'esibizione, eccetera, perché poi bisogna vedere adesso cosa si fa concretamente. No, ma ha detto una cosa giusta, ha detto che sanzionerà chi butta i rifiuti a cazzo. Questo è giusto. Secondo te è fattibile che vengano sanzionati quelli che buttano? No, ma già è così, ma già è così, ma già è così. Dirlo, sì, almeno ma... dirlo che sì, la colpa sì. È anche di chi ci abita e non soltanto se no, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. È un bell'atto fatto dal sindaco. Quindi devo, sai che non è che sono proprio amico dei 5 Stelle, però questa volta devo riconoscere. No, però c'è un altro elemento. Anche adesso, volendo, se tu butti l'immondizia per strada a cazzo di cane, sì, ti possono sanzionare. In altri posti lo fanno. Certo. No, ma anche adesso ci sono le regole per farlo. Non è che tu dici cominci adesso a farlo, vediamo. Voglio vedere dove arrivano, no, le telecamere, perché vogliono mettere pure le telecamere. Una okay. Telecamera per ogni. Per ogni. Come si chiamano? Per ogni raccoglitore lì? Bah. Voci da Tor Bella Monaca qualche giorno fa. Niente, che gli volevo dire, che da Tor Bella Monaca stavo proprio in mezzo alla merda, se dice a Roma. Ah, ecco, una cosa, diciamo, sì, sì, un concetto allora, chiaro, ecco. Sì, perché sì. Fa proprio schifo. Sì. Perché ci stanno i sorcetti, ci stanno le sorche qua. Questa era una signora qualche giorno fa, dal signor Del Debbio, se non sbaglio. Sì, ci stanno le sorche, effettivamente... Effettivamente si dice forse sorche in romanesco, zoccole più in napoletano, ma anche a Roma si usano le zoccole. C'ho il barcone che mi crolla, se va sotto qualcuno muore, e usa piante il culo lui che muore. No, no. Come, come... Allora, a proposito di città, caro Parenzo, il Salvi... lessico di questa signora è straordinario. Stupendo, se la stupendo. Underculo. Mamma mia, ragazzi. Se crolla il balcone, sapi underculo. Proprio sì. Romano. Cioè, vogliamo risentire, perché c'è proprio c'è l'articolazione del romanesco. Sì, ma la nonnina anche... di così, quanti anni ha la nonnina? Ma che cazzo ne so, non è che faccio è un video preso così. La da... nonnina, la simpatica nonnina. La nonnina romana, in questo caso. Anziché non padana. Preparare il tè con i biscotti, usa queste volgarità. Il tè con i biscotti. Se a Tor Bella Monaca fanno il tè con i biscotti, oh, se muore di caldo. Il tè con i biscotti e il limone, ottimo. Sì, ma se muore di caldo, non adesso comunque, aspetta. C'ho il barcone che mi crolla, se va sotto qualcuno muore, e usa la pianta il culo lui che muore. No, no. Come? Credo che siano le case popolari, dice, tanto non spetta a me mettere a posto il barcone che crolla, no? Dunque se qualcuno pia in testa qualcosa e muore, sì. Sapia under culo. Che gliene frega lei, stupendo. Sì, però questo menefreghismo è allargato, no? Anche al fatto che uno butta la monnezza per strada. Io non sono clemente quando si tratta di queste cose qui, non clemente. Bravo, meno male. Allora, esce un reportage sui giornali, per esempio Libero, fa un reportage e dice Milano è in preda ai clandestini che pisciano ovunque, profughi, eccetera, eccetera. Vero, non vero? Sì, sicuramente, sicuramente vero. Proprio in mano no. Però insomma alcune zone sono sempre infestate tra virgolette da profughi che fanno il cazzo che vogliono, infestate, non direi infestate dal punto di vista igienico, direi frequentate anche infestate quando uno piscia, se un profugo alla stazione piscia addosso a un muro, comunque infesta, cioè in qualche modo inquina, no, quella zona lì. E che succede? Esce una cosa del genere, perché l'ho visto sabato o domenica, e Salvini su un giornale, credo Libero, Salvini si improvvisa reporter. Nuovi modi di fare politica. Senti, senti. Buongiorno amici, benvenuti in diretta da Milanistan, stazione centrale di Milano. C'è gente che piscia, scusate l'immagine, a mezzogiorno e mezza, piscia. Benvenuto ai turisti. Ecco il benvenuto milanese italiano, una bellissima stazione Piazzale Rifatto. Centinaia di immigrati, non so come chiamarli, richiedenti asilo, presunti profughi, molto eleganti, a pisciare, a cagare ovunque, alla una. Fontanelle usate come docce, dice Salvini. Beh, sarà vero, in parte, sarà anche vero, cioè non c'è controllo da questo punto di vista, ma non c'è mai stato, diciamo, anche prima c'erano i barboni italiani, no, nelle stazioni. Fontanelle che servono come docce. Questo è, speriamo che almeno non lo tiri fuori, si limiti a far la doccia senza tirarlo fuori, in pieno giorno. Eccolo, dov'è la Boldrini? Dov'è Renzi? Dov'è Alfano? Vabbè, adesso non è che la Boldrini, Renzi e Alfano devono andare lì dove questi pisciano sopra. Cioè, dove questi pisciano, dove questi tirano fuori il pisello, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, torniamo sulla vicenda di Fermo. Ovviamente la vicenda di Fermo ce ne siamo occupati sin dall'inizio. È arrivata, pare, un'altra testimonianza, uguale a quella della testimonianza contestata della Baghetti, come minchia si chiama, quella là che a noi, oltre che a un giornale locale, ha detto che è stato per primo il nigeriano a picchiare l'italiano, quello di Fermo, il quale ha anche detto nelle ultime ore che vorrebbe dare tutta la sua eredità, tutto quello che ha, alla vedova di Emmanuel, la nigeriana. Allora, devo dirti la verità, caro Parenzo, a me ha fatto un po' impressione il fatto che si siano riversate là tutte le istituzioni. Qualcuno dice non è una passerella, ma secondo me è una passerella, è una roba per mettersi in mostra, per mettere lì il timbro, il lustrino, la medaglia dell'antirazzismo. Questa è la realtà, nessuno me lo toglie. Caro, la politica è fatta anche di questo. Prova a pensare a quello che tu dici. Salvini va alla stazione a dire che i profughi pisciano, e la Boldrini allo stesso modo va al funerale di Emmanuel dicendo. Sì, ma senza andando oltre confine, quando Obama fa il discorso davanti ai poliziotti il giorno di funerale a Dallas, no? Ma sono cose un po' diverse. Tu dici assolutamente diverse. È il nostro caso di razzismo, dici. Noi Fermo sta a Dallas in qualche modo. Esatto, paradossalmente. Fermo sta a Dallas. Ma ragazzi, ma lì il razzismo è una cosa seria, non è uno che per strada dice a una scimmia vattene a casa. Però è dai, lì che lo Stato lo devi vedere, no? Cioè lo Stato lo comunque devi la cosa incredibile è che la Boldrini dice che ha istituito una commissione contro l'odio, ti giuro, una commissione contro l'odio. Adesso va bene tutto, le parole inutili, le parole che vengono buttate lì, eccetera, il razzismo, quello che vogliamo, mentre le indagini sono ancora in corso, va bene, tutto è nato da questa frase che nessuno nega, tutto quello che volete, ma la commissione contro l'odio, amico mio, la commissione contro l'odio, non c'è bisogno della commissione contro l'odio. Però sentiamo. È importante che anche i media siano attenti, perché vedete, qualcosa che viene detto e sdoganato per battuta, per goliardia, può avere invece un ben altro significato. Per questo io ho istituito anche una commissione a Montecitorio contro l'odio. La commissione, di che si occuperà la commissione contro l'odio a Montecitorio? Di cosa si occuperà? Oltre quello che fanno le forze dell'ordine, oltre quello che fanno i magistrati, oltre quello che fanno i giornalisti nel raccontare, oltre quello che fanno i cazzoni speaker radiofonici come noi, come vengono descritti nel presentare un programma con tante cose, di cosa si occuperà la commissione contro l'odio? Di cosa? Di cosa? Amici della zanzara, lasciate perdere, io la zanzara non la voglio sentire, perché mi interessa il traffico, voglio sentire il traffico. La zanzara. Avrei una domanda per la rubrica Parenzo risponde. Parenzo, ma è normale che quando sento parlare a Boldrini mi salga il nazismo? Grazie, ciao. No, non è normale, perché il nazismo non c'entra niente, caro amico. E poi non è rubrica, forse si può dire rubrica in realtà. Rubrica si potrebbe dire, sentiamo un attimo la Treccani, però mi pare di sì. Rubrica, la rubrica invece di rubrica. Allora, vi faccio ascoltare la voce di una... Non ci fosse Parenzo risponde questa... No, non c'è infatti, non c'è, se l'ha inventata lui. Allora, c'è una signora che conosco abbastanza bene, perché l'ho incontrata in qualche occasione pubblica, si chiama Federica Raccagni, ed è la vedova di un signore che si chiama ovviamente Raccagni anche lui, perché Raccagni è il nome, diciamo, da sposata della signora Raccagni, che ha avuto un gravissimo lutto 2 anni fa per una rapina da parte di 4 signori romeni che entrarono in un negozio, credo a casa, per una... Oh, mamma. Dopo vari giorni di agonia il marito è morto 2 anni fa, esattamente in questi giorni. Si chiama Federica Raccagni, la quale è molto molto arrabbiata, è una signora credo di Bergamo, della provincia di Bergamo, una signora molto molto incazzata perché la Boldrini, Alfano, Renzi, la Boschi si sono mobilitati per la vedova del nigeriano e non per lei, dice di essere stata lasciata sola, eccetera eccetera eccetera. Si è mosso Alfano, andare al paese della vedova. Il Presidente della Repubblica ha speso parole per lei. Renzi assolutamente ha detto di non abbandonare la vedova. Ecco, io volevo denunciare questa cosa. Noi, io, dal governo, tutte queste attenzioni non le ho avute. Si parla di discriminazione razziale. Penso di averla avuta io, la discriminazione razziale, perché ci sono vedove di serie A e vedove di serie B, vittime di serie A e vittime di serie B. Cioè, lei si sente vittima di serie B perché non è stata attenzionata, non ha ricevuto le attenzioni, non ha ricevuto messaggi, incontri, eccetera, eccetera, con il governo, mentre la vedova del nigeriano è stata raggiunta, addirittura le si vuole dare la cittadinanza italiana, no? Immediatamente. Sì, certo. Mi sembra ovvio. Certo, certo, mi sembra ovvio. Che vuol dire mi sembra ovvio? Che c'entra la cittadinanza italiana? Del danno, ma che c'entra? Cosa l'uomo c'entra? Che era venuto qui per rifugiarsi, d'accordo, ma è stato vivo e tornato e morto cadavere. Ma cosa qui c'entra la cittadinanza cadavere italiana alla moglie? Però sono due cose diverse. È dovuto di uno Stato che non ha rifugiato. Cioè, siccome ci dobbiamo sentire in colpa, gli diamo la cittadinanza alla moglie. Ma è una questione di giustizia proprio. È una questione anche di rispetto di un segnale che si dà a una comunità. A te ti piacciono molto i segnali, spesso, i segnali. Sì, non quelli stradali. Cioè, per esempio, ti sei innamorato del fatto che la Francia, che ha perso col Portogallo, io ho goduto come un pazzo, sì, ho goduto da morire. È stato uno dei più grandi godimenti degli ultimi anni, la vittoria del Portogallo. Cioè, ho esultato tutti questi ragazzi. No, ma veramente ho goduto veramente. Cioè, è stato quasi un orgasmo. Ognuno gode con quel che vuole. Assolutamente. Ho visto questi ragazzi naturalizzati francesi. Esatto. Mi pare quasi l'80% sono ragazzi di colore. Cantare la Marsigliese. E ti sei emozionato. Bravo. Ti sei emozionato, pensa a te, tu ti emozioni per questo, io per la vittoria del Portogallo. Non proprio commosso, però hai detto, mi sono emozionato. Cioè, tu vorresti la Marsigliese, la patria, bellissimo, ma un gesto, una cosa straordinaria, sì, pazzesca, però forza. Diciamo la verità, tu vorresti la nazionale italiana, sogni tra 20 anni, che ne so, sì, la nazionale italiana in cui ci sono in campo, come è stato per la Francia, 8 neri e 3 bianchi. Ma me lo auguro, così almeno cominciamo a vincere qualcosa, anziché fare quei balletti davanti alle porte, che diciamo, sembra che ti scappa la pipì. Il primo vero nero, diciamo quello forte in nazionale italiana, non ha dato grandi risultati, sono Balotelli. Balotelli, a parte che appunto è italiano, Balotelli. Vabbè, ma anche quelli sono francesi, che c'entra? Quelli sono francesi, ma sono l'80% praticamente, mi pare di aver visto. Quasi, ma perché sono più bravi a giocare a pallone, è un'altra cosa. Sono però più bravi, e sono appunto, quindi vuol dire. Vabbè, comunque francesi. Tu sogni una nazionale italiana con 8 undicesimi neri. Ma io sogno magari che ci sia un nuovo Totti Rom, ad esempio, oppure un nuovo Totti Rom. Sì, ma quelli non pensano mai a giocare a pallone. Sicuramente non dici che scappano quando commettono i furti, chissà come corrono sul campo, no? Uguale. Oppure immagino lo straordinario Pelé ad esempio del Sudafrica, o immagino del Congo. No, non pronunciare Pelé che è andato in Cina adesso. Aspetta, Clemente da Roma, iniziamo, vai con numeri di telefono, vai Clemente. Ciao Cruciani, senti, io volevo parlare della storia di Fermo. Sì, e dico. Sono totalmente per Mancini. Secondo me gli ha detto male, perché A chi ha detto male? Scusami, spiegami. Gli ha detto male a Mancini, a quello che gli ha dato il cazzotto. In che senso gli ha detto male? Gli ha detto male a quello che è morto. L'ha preso sulla tempia, gli ha preso a malapena sul labbro. Quello è cascato e è morto. Ma che sei, Sherlock Holmes de Fermo? Che ne sai te che l'ha preso? No, a Cruciani, cioè io sono un po' un appassionato di arti marziali. Insomma, se tu dai un cazzotto su un gancio sul mento, sì, sì, è normale che quando giù, ma non è un colpo mortale. Non è un colpo mortale. Mortale, se tu lo quello è morto, però. Quello è morto. Un colpo sulla tempia. Ho capito, quello è morto. Lo so, diciamo, è normale. Perché ha sbattuto, se fossero limitati solamente allo scontro verbale, tutto questo non sarebbe successo. Cioè, dunque, è normale, ma fanno una butta sul razzismo, quello ha detto scimmia, ma scusa, no? Se tu litighi con Ciccione, è normale che dici a Ciccione del merda. Litighi, che ne so, con cinese, dici occhi a muso giallo, è normale, no? È normale. Quando fai a botte è così. No, ma scusami, però tutto è nato. Tutto è nato da un'altra cosa, da quello a due passeggiano per strada, e quello gli dice scimmia africana vattene. No, aspetta. Come no, aspetta, per adesso che così sembrerebbe che quello è intervenuto, ma perché no, questi stavano a fare qualcosa di strano. Cioè, non è che questo si è messo così per cazzarà. Ah, tu dici che quelli erano alla fine erano dei ladri. Uno. Erano dei ladri questi. C'era il sospetto che fossero dei ladri. Ma magari, sai, ma oggi magari viviamo pure dei paranoie. Magari questi non stavano a far manco niente di male. Comunque, tu sei con Mancini. E si è buttato in mezzo. Tu sei con Mancini. Io sono totalmente con Mancini, cioè sì, totalmente, perché purtroppo il quale però dice il quale si è pentito però e vuole dare tutti i suoi beni. È ovvio, cioè Cruciani, a parte il fatto questo deve fare un processo adesso deve fare insomma. A parte le Maria Coretti, no? È normale. Ma scusa, no? Dire scimmia africana vattene. Di oddio, scusa, che bella ammazzato. No, ma dire scimmia africana vattene non è razzismo, caro Clemente. Secondo me, se stai a litigare, no. Perché se è normale litigando. Che se tu stai a litigare con qualcuno e te prende l'attimo le cose, che ne so. Se ma... ti dichi che un parenzo dicevo a brutto nano, se ti dichi che ne so. Sì, ma ho capito perfettamente, ma non è. Ma, muso giallo, ma non è successo questo, è successa un'altra cosa. Comunque, fermo là, Clemente, che interessante questa l'interpretazione clementiana. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. La Zanzara. No, ma ragazzi, cioè, guardate che è incredibile. Cioè, Parenzo porta una sfiga pazzesca. Fa gli auguri a Pannella di pronta guarigione e il giorno dopo muore su Twitter. Festeggia per il no Brexit e la Gran Bretagna esce dall'Europa. E sempre su Twitter si festeggia, dice viva la France e poi vince il Portogallo. Miglia, ma quanto porti sfiga, Parenzo. Reagisci? Reazione? No, auguro a questo ascoltatore tutto il bene possibile, gli accadranno delle cose belle nella sua vita, quindi tanti auguri, insomma, sicuramente non perderà il lavoro e quindi la fidanzata sicuramente lo amerà per tutta la vita e quindi gli auguriamo, no, io non pure. Sì, adesso non, si starà no. Toccando i coglioni adesso. No, per carità, ma figurati. No, augurali tutto il bene possibile, il lavoro ho perfetto. Detto, ho detto, gli andrà tutto meravigliosamente. Parola di Parenzo, andrà tutto meravigliosamente, tornerà a casa e la fidanzata sicuramente non sarà con un altro ma sarà lì ad aspettarlo a cucinargli un piatto di pasta asciutta calda. Sicuramente il giorno dopo non lo chiamerà il titolare della sua azienda dicendogli guardi non abbiamo bisogno di lei e quindi sicuramente la mattina dopo non troverà quella cosa fastidiosa di trovarsi il calzino, prenderà il sole e non si ustionerà. Insomma, tutto andrà alla grande, figuriamoci. Allora, posso dire una cosa? La Chienghe, l'ex ministro Chienghe, viene fuori a livello mediatico, a livello, diciamo, di interviste, eccetera, solo quando si parla di neri e di razzismo. Beh, questo è colpa di noi giornalisti. Ma non lo so se è colpa di noi giornalisti. Soltanto... Evidentemente, no, non è solo colpa nostra. Evidentemente... Per tutto il resto. Beh, qual è il resto? Lei è stata ministro per l'integrazione. Ma non lo so, per tutto il resto, diciamo. Sicuramente uno gli può chiedere della crisi bancaria, ma non è la prima persona che viene in mente. No, ma per tutto il resto siamo a livello, diciamo, zero, diciamo zero o vicino allo zero. Cioè, che senso ha costituirsi parte civile in un processo? Sì, beh, è simbolico. Dai, simbolico. Ne ha detto. Allora, costituzione parte civile. Dice che senza scorta rischia addirittura di essere aggredita. Rischia... È vero, lo sappiamo anche noi, ce lo disse anche noi tempo fa. Certo, che lei ha catalizzato l'odio di molti che l'hanno attaccata. Allora, è stato molto attaccato in queste ore di discussione sulla vicenda di Fermo Vittorio Feltri, il quale ha la stessa idea che ho io, accade abbastanza spesso, però magari su altre cose invece siamo in disaccordo. Dice che è solo un episodio e non si può parlare di razzismo. Cioè, chi parla di Italia razzista è... totalmente cretino e su questo io sono d'accordo. Cioè, un episodio non è che dice l'Italia è razzista. L'Italia non è razzista, diciamo la verità. No, non è razzista. No, l'Italia non è razzista. Ha delle sacche di razzismo. Ma quello esiste dappertutto. Beh, dai. Sai, ci sono... Vabbè, Vittorione Feltri, dai. Io contesto che diciamo il luogo comune secondo il quale l'Italia sia diventato o stia diventando un paese razzista. Un episodio su 60 milioni di abitanti non mi sembra significativo in questo senso. Poi dice anche che Mancini ha dato un pugno senza intenzione di uccidere e quello può darsi, poi vedremo nel processo come andrà a finire. E poi interviene la Chienghe, credo che fosse la Sky se non sbaglio. a Sky, dice: il titolo di Libero istiga all'odio razziale, perché a un certo punto nel weekend Libero ha titolato se l'Italia è razzista la Chieng è cinese, no? Cioè sì, una sì, cosa del genere, che è un titolo, cioè, come per dire, cioè, no, non siamo razzisti, cioè, se noi siamo razzisti la Chieng allora che è? Cioè, non mi sembra un titolo, comunque Chieng. Comincio dal dire al direttore Feld che si è verificato il mio passaporto. Io potrei anche avere un passaporto cinese. Capisce che il titolo di per sé è un titolo ambiguo che istiga all'odio razziale. Su base di che cosa? Ha visto i miei documenti? Sì, però la signora Chieng dovrebbe capire anche un po' l'ironia di certi titoli, no? Il paradosso di certi titoli. Cioè, adesso, signora Chieng, va bene tutto, lei è un simbolo, è nera, viene dal Congo, è diventata italiana. Le hanno detto di tutto. Vabbè, ma ho capito, ma bisogna pure capirle le cose però prima, no? Cioè, bisogna pure capirle. Quello là non è che si vuole mettere in dubbio il passaporto della Chieng, è semplicemente un paradosso. E dai, su. David, è su, e ma dai. Ma che paradosso? È su cosa? È su. Lì c'è un morto. Ma no, ma lei contesta quella roba lì, contesta ma sì, quel titolo. Certo, ma sono dei momenti. Vabbè, comunque il format Feltri che se ne va dalle trasmissioni è diventato quasi un classico. Ma se n'è andato anche stavolta. Anche con la Chieng, credo. A un certo punto dice: vabbè, me ne vado. Guarda. Cioè, senti. Io sto rubando del tempo al mio lavoro. Se poi voi mi interrompete, significa che non vi interessa quello che io sto dicendo. Scusi, se non vi interessa ciò che vi sto dicendo, interrompiamo il collegamento. Allora, direttore, intanto non l'ho interrotta io. Però concludo dicendo che me ne vado, perché sono stanco di essere invitato gratis. Mi fate delle domande alle quali non posso rispondere perché mi interrompete, e in più mi fate fretta di concludere il mio discorso quando altri ospiti vanno avanti per 5 minuti. E nessuno li interessa e nessuno li interrompe. Cioè, a lui sta sui coglioni, si è capito, al direttore Feltri, quando è in collegamento, perché sì, è evidente che c'è una disparità, no? Quando sì, uno no, ma può avere anche ragione, figuriamoci. Ma però no, ma dice: me ne vado perché gli altri li fate parlare e invece mi interrompete. Allora, io riprenderei con Clementino, Clemente da Roma, no? Clemente? Sì. Eccomi! Eccolo qui, Clemente. Perché dici sono dalla parte di Mancini? Io sto con Mancini, hai detto. Ma il fatto che se vedi ma quello è un po' Cristo, ci cioè, si sono buttati tutti contro, proprio la grande della grande. Ha dato un pugno a quello. L'Alfano. L'Alfano. Ma allora, diciamo questo messaggio: la prossima volta litigate con uno dei colori, fate i mediatori culturali, no? Fate la vocetta dei Parenzo, scusi lei! Risorsa per il nostro paese scappato da Boko Haram, ma di che? Ma di che stiamo a parlare? Ma scusami, amico mio. Cosa ha detto questo qui? No, beh, però cerca di capire pure te, no? So che non è facile, però cerca di capire. Te sento. No, voglio dire, Clemente sostiene che non c'è ombra di razzismo. Ma come... no, assolutamente no. Ma come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Scimmia, quello gli ha detto, scimmia africana, vattene. Allora, cioè, Cruciano, ma tu avrai mai litigato in vita tua con qualcuno? È normale che gli dici un qualcosa normale, di offensivo. Se io, per esempio, sì, ma quello gliel'ha detto prima. Litigo con Parenzo, è normale che gli dico: oh, anano de. Ma a me non è che questo non è che significa che io ce l'ho a morte coi nani, ok, capito che te voglio dire? È normale intanto, che se tu vuoi offendere qualcuno, lo chieda a tua moglie, vero, ma non importa. Per te sia offensivo. Cioè, aspetta, ti vuole dire una cosa, Parenzo, aspetta. È normale che tu non ti posso dire una cosa del genere, perché non sarebbe offensivo. Aspetta dire un attimo, questo aspetta. Miserabile, intanto che nano chieda a sua moglie, chieda a sua moglie se è vero o no. Ma tu ci dovresti spiegare una cosa, no? Tu dici sempre che i rifugiati sono una risorsa. E tu guarda, c'hai ragione, però dovresti anche finire la frase. Dovresti, cioè, i rifugiati sono una risorsa, puntini puntini, ma per chi? Per chi? Per la mafia, per i papponi, per le zecche, per le cooperative, per tutti i papponi che magnate. Chi sarebbero le zecche, magnate, scusa? Magnate. Che sarebbero le zecche? I comunisti, dici tu? Sì, i comuni. A Roma le zecche sono i comunisti. Le zecche sono i comunisti. Ma questo lo sappiamo. Le zecche sono i comunisti. Che magnano. E poi che succede? Per tutta la merda, ce la scaricano a noi che abitiamo in periferia. Infatti ormai... Scusa, ma molti lavori, però. Allora non se li cagano più. Sì, però Clemente, molti lavori non... Clemente, mi pare Clemente un cazzo, come modo di, come atteggiamento. Clemente, molti lavori nome, ma non di molti parte. Lavori li fanno ormai solo gli extracomunitari in Italia. Cruciato, diciamola tutta, diciamo che certi stipendi gli italiani non li possono più, anche se li stanno non ritornando che, a prendere, scusa, te lo assicuro. Ho capito, ma non è che adesso sono diventati certi, pure ricchi, diciamo, gli extracomunitari. Certi lavori, certi salari, che è una cosa diversa. Vabbè, ciao Clemente, certi Pino salari. Arezzo, vai. Pronto? Dimmi Pino, dimmi. Ma niente, io vedo le cose di fermo, naturalmente. Guarda le cose di fermo, per carità, dimmi. Da un punto di vista diverso, a me ha dato molto fastidio come sono stati dipinti queste due persone, vittime, lui che è morto, eccetera. Ma insomma, questo qua. Quello è morto, diciamo, è sicuro, quello morto è sicuramente morto. Ecco. È una vittima o no? È una vittima di una fatalità, secondo me. Ma è morto o no? Certo che è morto. È una vittima. Però viene dipinto come un povero immigrato in cerca di asilo, cattolico. Beh, cattolico era cattolico, cristiano era cristiano, diciamo, no? Perfetto, è un cristiano che piglia di fronte a un insulto brutto, esecrabile, quello che volete, piglia un cartello stradale, c'è pesta uno. Beh, per diciamo questo, che anche qui è ancora da verificare, tutto quanto. E dunque la tua conclusione qual è, Pino? Non ho capito. Che molte persone che adesso si sono schierate, si sono messe su questa. Ma la moglie, come la vedi la moglie, quella là che si è messa a piangere in modo drammatico? La moglie, senti, io ho sentito l'avvocato di vabbè, Martino, allora, mi sembra, che questa qui lo stava a prendere a morsi, sarà vero o no? E dunque che facciamo? Dobbiamo indagare lei? Secondo me sì. Indagare la moglie? La moglie indagare? Questo è impazzito. Ma se questa lo teneva fermo e quell'altro gli dava le sprangate, ma ragazzi, cioè, secondo te bisogna indagare la moglie di Emanuele? Ma non indagare, tu l'hai detto. Io vorrei, guarda, sta cosa si andrà a fondo, io ho massima fiducia nella magistratura, andranno a fondo. Vabbè, perché si ho capito Pino, ho capito benissimo. Dove andiamo? Elisa, provincia di Savona, vai Elisa. Sì, ciao ragazzi. Ciao, allora, ragazza, io dimmi. Sono pienamente d'accordo su a sostenere, su cosa? Mancini. Pure perché? Tu. Ma cos'è? Sì, ma questo non è una partita. Una domanda, ragazzi, perché tutti gli ascoltatori, almeno la maggior parte degli ascoltatori del vostro programma, sì? Pensa che siamo tutti con Mancini. No, ma c'è anche un hashtag, allora, eccetera, molte persone sono con Mancini, ma non lo so, non ho fatto un una statistica. Addirittura su un social. Io sto con Mancini, no? Ma è una perversione assoluta, esatto, amico mio. Allora, lo stesso Mancini allora, dice di essere colpevole, dice di essere colpevole morale, ma non giuridico, in realtà dice. Però in realtà, cioè, anche ma lui dice che lascerà il suo, vorrebbe lasciare tutti i suoi averi alla moglie. Sì, peraltro. Vabbè, allora tu stai con Mancini, perché stai con Mancini, Elisa? Perché semplicemente per il fatto che a me è capitata la stessa cosa. Ne cosa fa è capitata? Bambino, mi è capitato che un negretto, così, il uno negretto, di colore nero, il negro, negro di merda, posso anche dire questo. No, però no? Aspetta, dimmelo dopo, non il negro di merda. Niente. No, va bene, ma infatti è giusto che tu dica quello che pensi. Così, devi dire quello che pensi e dopo me lo spieghi. Aspetta un attimo che abbiamo il traffico là, che c'è, no, il traffico, c'è la borsa, sì, la pubblicità e tutto il resto. Pronto, Radio Merda? Ah, è la Zanzara? Vabbè, dai, è uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, ieri ho detto alla mia ragazza che per lei fare qualunque cosa tranne rinunciare alla Zanzara. È vero? Te juro che è verdad. Tornato padre Fanzaga e questa volta di cosa parla il grande speaker di Radio Maria? Di cosa parla? Parla dei topi a Roma. Oh mamma. Senti, topi a Roma secondo Don Livio Fanzaga. Il demonio. Cosa dovremmo fare con quei topi secondo voi? Secondo gli animalisti dovremmo accomodarli nel nostro letto. Ma poi ha l'anima spirituale immortale, questa è la parte superiore dell'anima grazie alla quale l'uomo immagina di Dio e parla con Dio, si rapporta a Dio, per cui non, in base a questa dottrina prima l'uomo poi l'animale, cioè prima nel mio letto vado io, poi vengono i topi. Qui non ha torto però, prima vengo io e poi vengono i topi, perché sai che un tempo fa qualcuno vorrebbe risolvere il problema dei topi a Roma semplicemente invitandoli ad andare via. Sì, qualche folle animalista. Sì, invitandoli magari con un piffero, no? Con un piffero. Sì, piffero, sì, bravo, esatto. No, qualche folle animalista. Qui Don Livio Fanzaga mi pare lucido. Sì, mi pare lucido in questo caso. Sì. Un orologio rotto due volte al giorno, l'ora giusta la dà. Ma due volte al giorno, due volte all'anno, diciamo, in questo caso, però. Sì. a questo che è il re, vero re del creato, che è appunto l'uomo dotato di anima immortale. Ma gli animali hanno un'anima, sì, ma materiale e mortale. I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 11 anni o 10 anni, non mi ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario, allora ogni tanto attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta uno, un seminarista, ha fatto gol con un topo. Cioè... Però ragazzi, il top di queste ore è inutile negarlo, eh. Viene da una serie che è su Facebook da tempo, che si chiama Il Milanese Imbruttito, in cui raccolgono le testimonianze di vari giovani, in questo caso credo a bordo piscina a Milano, da qualche località di questo tipo, e vengono fuori ovviamente le peggio cose, per esempio su chi è il Presidente della Repubblica. Milanese Imbruttito: chi è il Presidente della Repubblica? Un coglione. Renzi, no? Napolitano. Quello prima? Silvio Berlusconi. Letta. Alfano. Prima era Napolitano, adesso è un altro che, perché Napolitano è morto, però non mi ricordo il nome. Sentiamo se sanno che cos'è la Brexit. Cos'è la Brexit? Senti, parliamo di Brexit. Ne hai sentito parlare, ovviamente. Mai sentito in tutta la mia vita, sinceramente. Non so cosa significa Brexit. Brexit, sai, l'Unione Europea. Fermo seduto. Brexit. Dove si trova Brexit? Brexit è il complesso delle isole della Gran Bretagna. Gran Bretagna, Scozia, Galles, Irlanda, eccetera. Sono in Germania. In dove... America, non lo so. Chi per primo dichiarò che la Terra gira intorno al Sole? Colombo. Gandhi. Cleperero, là. Einstein. Guglielmo Telmo. Pleto. No, che Pleto. Guglielmo Telmo, devo dire che è eccezionale. Molto bello, molto bello. Guglielmo Telmo è veramente una cosa pazzesca. Anche Cristoforo Colombo non è male, la Terra gira intorno al Sole. Sì, chi ha inventato il telefono? La radio? Senti. Chi ha inventato il telefono? Come si chiama? Che? Nokia. Telefono. La Apple. Ti aiuto? Me. Te. Mesna. Facciamo così: chi ha inventato la radio? Dai, questa è più facile. Marco. Marco. Mengoni. Marco. Marco Polo. Marco, se n'è andato, non ritorna più. Marco Mengoni è eccezionale, eh. Marco Mengoni è inventatore. Va bene, Paco Belluno, vai, Paco Belluno. Ciao Bruciani. Dimmi, chi è Paco? Ciao. Paco da Belluno. Ah, quello che è nigeriano, il nigeriano, quello che ha messo incinta l'italiana. La allora. No, prima, senegalese, prima... senegalese, sì, scusa. Ascolta Bruciani, io l'altro giorno, come che io ti avevo raccontato che io ho avuto una bambina con una testimone di Geova, io che sono musulmano. Ma testimone di Geova lo dici tu adesso, io non... E tu, no, era testimone di Geova, e tu hai avuto dubbi, no? Come che dubbi? Se me lo racconti alla radio, che ne so, magari è una cazzata. Aspetta. No, per quella, per confermartelo, no. Come che l'altro giorno ho sentito uno da Belluno che si chiamava Giuseppe mi pare che ha chiamato da Belluno, no? Se hai qualcuno da Belluno, me le metti in contatto, io gli faccio vedere, gli faccio controllare. Ma che me ne frega a me adesso di mettere in contatto te con un altro di Belluno che dubita del fatto che tu hai messo incinta un'italiana testimone di Geo. Adesso, amico mio, la storia diventa complicata. Comunque, per ricordare agli ascoltatori di cosa stiamo parlando, Paco da Belluno è un signore di origine senegalese, credo italiano ormai, c'hai il coso? No, non l'ho preso, non vuoi essere italiano. Dopo 21 anni, no, ma non lo voglio, non voglio la frega niente. Ma che sei residente? Niente, io ho la mia cittadinanza, io mi tengo la mia cittadinanza. Vabbè, ma tu sei residente in Italia però. Madonna, ho anche casa in proprio, la casa è mia. Hai la casa tua, benissimo. Hai messo incinta una volta una. Ecco. Hai avuto, questa non ti fa vedere il bambino, come funziona la cosa? No, ma perché non me lo fanno vedere? Perché, allora, il discorso era questo, no? Cioè, io l'ho visto, siamo incontrate 3 volte. Sì. Poi dopo, con chi? Con una ragazza. Con una ragazza. L'hai messa incinta? Ecco, l'ho messo incinta e sì. Io non lo sapevo neanche. Vabbè, non lo sapevi, che vuol dire dopo, non lo sapevi? No, se non usi il preservativo, perché amico, visto, perché, no, aspetta, perché non perché? Usi il preservativo, Paco? Sì, hai ragione. Ma hai ragione, ma che sei una bestia? Ragione, usa il preservativo, no? Sì, ma purtroppo con le volte non l'ho usato e mi è costato caro. Appunto, quello che ti dico. Il senso che tu con sta spada di fuoco che c'hai, come diceva, con sta spada di fuoco. Spada di fuoco? Sì, cioè, questo c'è una spada di fuoco. Ho sbagliato, però Cruciani, sai cosa vuol dire? Insomma, guarda, star male, sapere che a 7 km qua ho una bambina che è nata il 24 ma è mulatta, ma è sicuro che tu è mulatta? È mulatta? Per forza. È nera, mulatta, c'ha un po' di... È mulatta. Cruciani. Ma perché non te la fa... Perché non te la fa vedere sta testimone di Geova? Perché, allora, all'ottavo mese... Cioè, io l'ho saputo dopo 16 settimane... Lei mi ha chiamato per dirmi che era incinta di me. Allora? Io le ho detto, vabbè, è capitato, vabbè, perfetto. Allora, cosa facciamo? Niente, io aspetto. Allora, aspetti che aspetti? Mese, aspetta, all'ottavo mese di gravidanza... Ma è troppo tardi all'ottavo mese. In senso che io proprio l'ho seguita. Con sta spada di fuoco, Paco! Che combini? Allora, cosa è successo? È successo che all'ottavo mese di gravidanza i suoi hanno chiamato con tutti i dirigenti testimoni di Geova della provincia di Belluno. Ah, pure testimoni di Geova ci stanno in mezzo. Questo è interessante. Aspetta, è interessante. Cosa volevano da te? E che ne so, lo dici tu? Volevano che io dovesse cambiare religione. Io dovevo cambiare religione, diventare testimone di Geova e sposarla. Questa io l'ho mandata a cagare. Beh, giustamente. Devo dire la verità. Allora, non me la fanno vedere, è nata, le hanno dato nome e cognome loro. Ma scusa, a te importa questa cosa, non vederla? Ma mi fa male, Cristiano, è sangue del mio sangue. Cazzo. Beh, ma facciamo una grande battaglia, Parenzo, una grande battaglia ma per la... grande battaglia? Per la dignità. Per la dignità. Ma io, scusa, per una volta che sono dalla parte di Paco, senegalese... Ma Cruciani, ascolta. Dimmi. Ma tu conosci l'avvocato Panis, no? L'avvocato Panis, sì, Panis. Più o meno. Sì. Panis, allora, non io Panis. Sono andato nel suo studio. Quello ti avrà mandato a fare in culo, sicuro. No. Ho parlato con suo figlio che si chiama Massimiliano. Sì, no? Allora? Per vedere se c'era la possibilità di andare via legale. Mi hanno consigliato. Gli hai detto che c'è la spada di fuoco, innanzitutto, quello è... no, perché altrimenti non si capisce bene. Spada di fuoco, se uno il terrore delle donne lì di Belluno, senza preservativo, amico mio, un po' te le vai a cercare. Ma io oggi non ti avevo chiamato per questo. Sì, vabbè, ma adesso fammi ricapitolare questa cosa che è interessante. Allora, non ho capito. Allora, che ti ha detto l'avvocato Panis? Che non conviene. In senso che non conviene andare via legale. Perché non finisce mai, non finisce più. Ma perché ti ha detto che i testimoni di Geova sono un osso duro? Che cosa? No, ma il senso che è una cosa che non finisce più, tutta la mia vita dovrei andare tra processi e tutte queste cose, poi dopo. Vabbè, ma allora, ti ha consigliato di non fare niente. Tu, sta figlia, finché è maschio o femmina? È una femmina. La vuoi vedere? Vuoi i tuoi diritti, come dice Parenzo, come direbbe Parenzo? Vuoi far valere i tuoi diritti, sì o no? E allora facciamo qualcosa. Ma lasci stare la Madonna. Madonna è un'espressione, Vabbè, Paco, questo lo vedremo. Faremo una grande battaglia contro i testimoni di Geova. Questo un po' mi arrapa, questa cosa allora, qui dei testimoni di Geova. Perfetto. Allora, intanto, no? Intanto, perché hai chiamato stasera, Paco? Ma io ho chiamato se sarà per dire, no? Io, ma perché questo di cazzo, no? Chi? Questi razzisti di merda, no? Ma perché uno come me non mi beccano mai a dirmi del negro? Ah, tu dici, se l'avessero detto a me, scimmia. Ma io non me li dice mai nessuno, perché mi guardano, perché ti ho detto che io sono 1,90 e 100 kg. Per questo c'è la spada di fuoco. Esatto. Allora loro guardano bene chi devono offendere, chi lo offendano. Beh, ma questo pare che abbia reagito in realtà. Cruciani, un giorno mi è successo che ho corso dietro uno, fino dentro un negozio, a me. Lo vedi, però, capito, ma perché magari magari tu incrociavi quello là, quel Mancini che è alto pure è alto come te, 1,90 m, e ti faceva un culo così. Solo che mi presento, guarda, si gira dall'altra parte. Tu dici sei talmente alto, 2 metri, con la spada di fuoco, e c'è tutto che gli fai un mazzo così. Ma guardano bene le persone, a chi offendere le persone. Tu dici hanno visto quella coppia lì, eccetera. Ma che cazzo? Altro che se io vado in giro con mia moglie, che uno che per me c'è questo qui. Ma lascia perdere, chiedo scusa. Ma lascialo parlare come vuole, che sei impazzito. Lascialo parlare come di parlare. Perché lo devi reprimere? Perché lo devi castrare? No, mi pare che abbia imparato bene l'italiano. Appunto, quello mi sicuro. Pare ben integrato. Io non lo credo, ma adesso tu c'hai una moglie nera adesso, Paco? Sì, come no. Ah, già, è vero, non mi ricordo più niente. È qua con me. Passami tua moglie un attimo, scusa. È qua con me. Passami un secondo, come si chiama tua moglie? Mia moglie si chiama Mamita. Come si chiama? Mamita. Passami Mamita. Passami Mamita, sì. Pronto? Ciao Mamita, ciao Pa. Ciao Cruciani. Ciao tesoro. L'amico del mio marito. Mamita, sempre senegalese, pure te? Sì, io sono senegalese. Sei senegalese. Se a te ti dicono per strada scimmia, scimmia africana, vattene, che fai tu? Purtroppo non mi è mai capitato. Perché purtroppo? Scusami, no, per fortuna, diceva. È una fortuna, non mi è mai capitato. E se ti capita, che fai? Se ti capita, che fai? Io non rispondo. Non rispondo, vai avanti. Io so che sono davanti a un ignorante. Sei davanti a un ignorante, bravo, ma per cui non reagisci, diciamo, non avresti reagito come sembra che abbia fatto quello là, quel nigeriano. Non reagisco. Io sono una persona civile. Senti, Mamita, ma Paco c'ha la spada di fuoco o no? È vero che c'ha la spada di fuoco o no, Paco? No, guarda, Paco non uccide neanche una mosca. Lo so, ma sempre la spada di fuoco c'ha. Vabbè, ciao, Mamita. Ciao, tesoro. Ciao. Saluti. Luciani, ma come te pettini, che amicetti? La Zanzara. Allora ragazzi, a grande richiesta da venerdì, Parenzo, a grandissima richiesta da venerdì, il club alla boutique del Ku Klux Klan, la signora Marcella e le sue amiche, da te definite le razzistelle della boutique, e devo dire che la verità è che qualche espressione, no, non era proprio propriamente... Come si dice? Polish? Come si dice? The politically correct. Marcella e le sue amiche dalla boutique di Roma. Se io passo e mi dicono cozza, perché magari potrei essere una cozza, non sradico un palo della luce e lo do in testa a chi me lo ha detto. Ma che c'entra questo? Con la... Capito? Che c'entra. Se lei è una cozza, è una cozza, sono problemi suoi. Appunto, e se quella è una scimmia, è un problema suo. La scimmia è un insulto razzista, lo capisci o no? Ma non è un insulto, perché le scimmie sono anche molto carine. Ma non è un insulto dire a un immigrato di colore scimmia? Ma assolutamente no, anche perché deriviamo dalla scimmia. Ma non è un insulto dire scimmia? Io non credo. Non credo, non credo. Guardi, Lorenzo, lei mi sembra anche un po' froce in questo momento. Come dice, cara? Mi sembra anche un po' froce. Ah, eccola qua la razzistella. Quindi scimmia si può dire, poi froce. Lei mi fa tutti gli eccetti come un froce. Poi alla fine chi se ne frega o no? Di che cosa? Del fatto che questo è morto. Ma non è, guardi, ne muoiono tanti di bianchi uccisi da degli immigrati. Ma mi pare è morto un poliziotto. Ne muoiono dei bianchi uccisi dagli immigrati. Ecco, ma che ultimamente dice? Un poliziotto non è stato ammazzato? Ma chi sono queste amiche? Che è questo circolo di razzisti? Il circolo piccolo, no, dei razzisti? Ma basta essere negro in Italia, malato di AIDS. Gli AIDS ha svoltato la vita. Cioè basta essere negro, malato di AIDS? E negro, negro, malato di AIDS e possibilmente gay, hai svoltato la vita. Cioè? In che senso, scusi? Cioè tutte le agevolazioni stupidi possibili e immaginabili. Mi passa un'altra? Guardi, non le passo un'altra perché non hanno voglia di parlare con lei. No, perché? Sale. Perché no? Non gli interessa. Ma è interessante questo club. Mi faccio togliere il cappuccio bianco del Ku Klux Klan. No, se me lo manda un cappuccio bianco mi piacerebbe molto fashion. Anche le torce, anche le torce. Anche le torce. Anche le torce. Allora, eravamo però con Elisa dalla provincia di Savona, caro Parenzo. Ce l'avamo scordati, Elisa dalla provincia di Savona. Devo dire che ha riscosso grande successo questo spaccato romano della boutique, della boutique con Marcella e le sue amiche. Anche a te avranno chiamato, ti sei, no? Ma hanno segnalato, sì. Ma ti hanno segnalato, amici, hanno segnalato che hanno seguito la trasmissione, non riditi, ma hanno detto, insomma, chi è questa gentaglia? Comunque, vediamo quest'altra signora. Elisa dalla provincia di Savona, prima ha detto negri di merda. Perché hai detto negri? L'altra razzistella, cioè. No, ma non lo sa. Va a cagare, Parenzo. Ma perché hai detto negra di merda? Perché? Allora, ma certo, intanto io vorrei sapere perché quel fenomeno di Udine non prende la cittadinanza, e ve lo dico io, per non pagare le tasse, uno. Ma perché chi? Ma quello non è di Udine, è di Belluno. Di dov'è? Il senegalese, sì. Guarda che te lo metto in collegamento. Guarda che te lo metto in collegamento, glielo dico io. Paga le tasse e prendi la cittadinanza. Guarda che te lo metto in collegamento. Che apre il negozio in Italia? No, io non prendo la cittadinanza italiana. Guarda che te lo metto che non paga le tasse. È meno paga. Ma che non paga? Che non paga le tasse? È residente perché in Italia, ma che dici? Il residente le paga lo stesso, anche se non ha la cittadinanza. Vabbè, informati, Elisa, non ho capito perché comunque hai detto negro di merda. Io te lo spiego benissimo. È successo 5-6 anni fa in un parco giochi. Mio figlio aveva una bicicletta abbastanza costosa. È arrivato un negrettino, no? Ma con un negrettino. Un bambino di colore nero. No, hai detto negro di merda prima. Negro di merda, allora. Ma perché hai detto negro di merda? Per il semplice fatto che dal nulla mio figlio non gli aveva fatto niente, non lo conosceva neanche, ha preso la bicicletta, ha cominciato a saltare sui raggi della bicicletta. Ma della bicicletta tutti i bambini. Non è vero, perché mio figlio è educato e non lo fa, capito? Ma che c'entra questo col fatto che... Allora, io l'ho preso. Ma che c'entra col fatto che era nera? Che era nero, nera, dai. Allora, perché sono allo sbaraglio, come tutti gli zingari. Cioè, sono primitivi. Ma che c'entrano i zingari con i neri? No, perché sono privi di educazione, perché devono essere civilizzati. Punto e basta. Punto e basta. Mio figlio cresce che se ti vede parezzo ti dice buongiorno, buonasera, grazie, prego, non va a fanculo, come mi ha detto quel bambino là, capito? Semplice. Mio figlio la pensa esattamente come me. E tra parentesi, per quanto riguarda il fatto della scimmia detta da Mancini e cose, mio figlio, che è grande e grosso, 12 anni, 1,75, gli dicono gorilla, non fa rissa tutti i giorni perché gli danno del gorilla. Ma cosa, capito, c'entra adesso questo? C'entra perché comunque è la specie della scimmia. Ma sono due cose diverse. Ho capito, ma allora quello là, se gli avrà detto scimmia rientra nel tuo paese, magari sarà stato esasperato. Ma non c'è stata la segregazione razziale contro i ciccioni? Non siamo più. Ma di che non ne puoi più? Di cosa? Di finirla. Ma di cosa non ne puoi più? Di tutta gente che arriva, di vedere la Boldrini che piange. Ai funerali di quell'individuo anonimo, senza né arte né che vuol parte. Dire? Alzate, è morto uno, come fai a dire una cosa del genere? Ma certo che la dico, perché per me non esiste, per me esistono quelli quello che non sono esiste. Morti ad Asca. Quello non esiste, quello che è morto non esiste, sfuggito alla persecuzione, certo, Boko Haram, non esiste. Ma per favore, beh sì, pare di sì, pare di sì. E infatti poi il suo Parenzo, però di qualcosa pure tu stasera, mi fai fare la parte così. Ma tutti i cruciani, ma te lo stanno dicendo tutti, ma Cruciani, ma tutti te lo dicono. Ma non è che tutti lo dicono. Ma come cresce il figlio di questa signora qua? Ma che roba è? Ma lei cosa fa? Pane, Nutella e razzismo? Ma cosa gli fa? La merendina? Quando vengono i suoi amichetti del suo figlio, cosa fa? Pane, Nutella e razzismo? Fai il finto radical chic e vai ai funerali come la Boldrini, di quello là che piangeva come un vitello, quell'altra deficiente. Ma scusami Elisa, scusami, io non voglio capire che ne pensi di quello morto, perché hai detto anonimo quell'individuo lì, Immanuel? Perché per me è uno che è finito in una rissa come tanti altri italiani. Manco sai il nome, manco ti interessa il nome, il nome non ti interessa. Non me ne frega un cazzo. La vedova che si mette a fare i canti nigeriani o senegalesi o quello che sono, ma che se ne ritorni al suo paese, che veda il suo destino. No, nigeriani. Qual è? Mi sono rotta i coglioni. Ma le è morto il marito. Ne sono arrivati 7.000 cruciani qua, 7.000 pisatina. Quello è un altro discorso. Le villette, ma tu sei in provincia di Savona, non ha fatto nessuna villetta. Ma io ero a Milano. Ma non c'è nessuna villetta. Va bene. Ma quale campi villetta Roma, di che? Ma i campi rom è un'altra cosa. Di tutte queste tutto insieme, gente tutto comunque insieme. Che non è educata, hai capito? Non è educata. Ma non è capace di civiltà. Ma scusa, l'unico che non è educato è stato al limite, e parliamo solo di educazione, eccetera, allora, quello che gli ha detto scimmia sentito, di merda, vattene. Allora, ha ragione allora a questo punto. Ha ragione quello che gli ha detto scimmia di merda. Aspetta, fammi finire, cazzo, Cruciani. Ma come è educata? Allora, ha ragione quella signora che è la cosa. La moglie di quel pacco là che ha intervistato, che dice: io sarei stata zitta, avrei tirato dritto. Vabbè. Le Elisa, provocazioni, punto e basta. Elisa, no? Ciao, vai a fare in culo. Ciao. Assolutamente mitico il club delle razzistelle romane. Voglio farne parte. La Zanzara. Cruciani, altro che Torbella Monaca, vi è che fa in giro a Piena Valle, che se viene Piero Angela ci fanno speciale super quark vicini ai secchioni, te lo dico io. Se sa. Allora, Parenzo, te l'ho detto all'inizio della trasmissione, praticamente 2 anni fa, nella notte dell'8 di luglio del 2014, 4 albanesi entrarono nella casa di Pietro e Federica Raccagni e colpirono 4 albanesi clandestini. Entrarono nella casa di Pietro e Federica Raccagni e colpirono con una bottiglia il macellaio di Pontoglio, cioè Pietro Raccagni, il quale morì alcune settimane dopo. Questi qua facevano parte di una banda che aveva messo a suo quadro la zona, eccetera, eccetera. Ora, Federica Raccagni è molto incazzata per quello che è successo nei giorni scorsi. Tu dici, perché è incazzata? È incazzata perché le istituzioni si sono riversate in massa, fermo, per quell'episodio di cui abbiamo parlato, di cui parliamo da giorni, con le testimonianze che vi abbiamo proposto, eccetera, eccetera. Io una telefonatina per capire a che punto è l'incazzatura di Federica Raccagni e soprattutto perché è incazzata questa signora. È incazzata, questo lo voglio dire a tutti, perché secondo lei viene trattata da vedova di serie B, così ha detto in questo video che ha diffuso su Facebook nei giorni scorsi. Cioè, lei zero attenzioni, la vedova del nigeriano invece addirittura la cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Pronto? Federica? Sì? Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Cruciani, ciao. Ciao. Come stai? Questi giorni sono arrabbiata. Ma che è successo? Perché ce l'hai con le istituzioni, con la Boschi? Guarda, ce l'ho con le istituzioni, con la Boschi perché... Pure la Boldrini. Con la Boldrini, perché lo sai, sono partiti tutti subito a andare a fermo al funerale di Emmanuel, che secondo me è lodevole che l'abbiano fatto. Sì. E, mentre invece quando succedono a noi queste cose non si muove nessuno. Io non ho mai ricevuto un telegramma e questo, credimi Giuseppe, sì, che per sì, una famiglia o per chi è colpito fa male. Ma perché metti insieme le due cose? Perché tu non hai ricevuto manco una parola da nessuno? No, caro, certo. E ho incontrato Renzi 2 volte, ma perché mi sono fatta largo io dove era una manifestazione. E invece hai visto intorno alla vedova di Manuel? Certo, molta attenzione. Ho visto Alfano che è partito, sarebbe piaciuto anche a me che Alfano fosse venuto a Pontoglio per sì, un vertice sulla sicurezza, perché non è poco quello che è successo. Sì, guarda, sì, che è un comando che aveva devastato il paese e mio marito ci ha rimesso la vita e non è poco. Erano quadro clandestini, non è sì, poco, eh. Signora, sono Parenzo. Parenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, cara, al netto di tutto. Che cosa c'entra l'episodio di razzismo che ha colpito quel ragazzo che poi è morto con un episodio di cronaca tragico come il suo? Cioè, sono due cose che non si possono mettere insieme. No, secondo me non è in quanto l'episodio di razzismo, quando un caso è violento, lì è nato da una lite che non si sa neanche il perché. No, io il dico ragazzo che di colore ha perso la vita, è lì morto, che tramortito. Ascolti, Parenzo, Alfano dice è discriminazione razziale. Io nel mio caso sento di averla avuta io, la discriminazione razziale da parte del governo. Anch'io ho subito un fatto violento, mi sarebbe piaciuto che lo Stato intervenisse. Siete voi che continuate a metterlo sul razzismo. Lì è scaturita una lite, probabilmente questo esaltato avrà dato anche delle parole. Però succede anche a noi, sai, che rimaniamo uccisi. Mio marito è rimasto ucciso. Però scusami, una cosa è dire una rapina, una cosa è una lite che è partita da un insulto come scimmia, vattene. Ma guarda, forse è peggio ancora una rapina, credimelo. No, forse no, è ma peggio questo ancora una rapina subita da 4 clandestini che non dovevano essere qui. Perché fosse una parola, un telegramma, lo meritavamo anche noi. Anche mio marito è stato ucciso per una macchina. E forse è anche peggio, ti rendi conto? Eravamo in casa nostra, Cioè, Federica, allora, dice questo. Cosa lo chiamiamo? Un caso statistico, un caso di cronaca? Cioè, Federica dice, scusami, Federica, tu dici questo. Il razzismo l'ho subito io, questo dici tu. Perché secondo me non considerano noi italiani, cioè mio marito è stato ucciso da 4 clandestini, 4 albanesi. Però il razzismo è una cosa precisa, non è che il razzismo... Ma non, Cioè... Sì, sì, ho capito cosa intendi. Voi la mettete su un fatto... Guarda, io dubito anche che sia stato un caso di razzismo. Forse sarà stata una lite. Io sono incazzata perché ho visto tutto questo, tutta questa passerella del governo, tutti che sono andati a vedere... Cioè, non dovevano andare, secondo te? Mi sarebbe piaciuto che fossero venuti anche da me, oppure da tante altre vittime come me. Io non pretendevo che venissero ai funerali, ma ci mancherebbe. Ma una tutela alle vittime prima e dopo no. Prima dovremmo essere tutelati perché appunto c'è troppa gente che sbarca con barconi e non sappiamo chi sono. Non tutti sono profughi. E dopo, secondo me, che ti succeda una cosa così, sei abbandonato doppiamente perché avremmo diritto anche a degli indennizi. Parenzo, che dici? No, Parenzo dice che gli dispiace che nessuno gli ha scritto il telegramma alla signora, ovviamente, ma non mi sembrava il momento per tirar fuori questa polemica di fronte. E invece io sì, mi è venuta spontanea, credimelo. Al cadavere caldo di quell'immigrante, di quella che rifugiato. Parenzo, credimi, quindi, che non c'è niente come tutto, provarle le cose. Ma con tutto, come dire, l'amore e l'empatia che posso provare per lei che ha perso il marito, figuriamoci. Ma, se mi metto guarda a che mio marito, guarda che eravamo tranquilli in casa, mio ma marito sta. Ci sono davanti alla sua niente. Famiglia e mi sento dire, sento Alfano che va lì a portare solidarietà alla vedova, sento Renzi che dice non abbandonate la vedova perché è un caso di razzismo. E il mio che caso è? Scusi, e il signore che abita vicino a me, buttato su una carrozzina infermo sempre, anche lui colpito da quattro clandestini, che caso è? Scusi, come lo chiamiamo quel caso lì? Scusa Federica. Che nome gli date voi giornalisti a un caso così? No, ma di cronaca? Criminalità. Un caso statistico? No, no, ma che è un caso di criminali che con delle responsabilità. E non meritiamo sono due niente casi di noi. Criminalità. Una è una criminalità con l'odio dell'aggravante dell'odio razziale. Però Federica contesta anche questo. Cioè, per esempio, Alfano vuole dare la cittadinanza alla moglie, alla signora, quella là, la cittadinanza italiana. Non so cosa c'entra a dirti la verità. Assolutamente. Perché ha diritto alla cittadinanza? Però ti sei sentita male perché il governo si è mobilitato. Io tanto, credimelo, tanto, perché in questi due anni sto combattendo tanto e mi trovo sempre un muro davanti. Io mi sono identificata ho e hai visto una disparità, la differenza di trattamento, hai capito? Ho capito. Che, ciao, appunto, abbracci. Io mi sono sentita tradita, basta. Ciao. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. House in Hampstead, Fallout Bunker, done everything we could. Fitted the rolls with a shatterproof windscreen soon as we heard the news. Harrods do a nice little tear gas, even a woman can use. Allora, dove andiamo? Andiamo. Walter, provincia di Chieti, vai, Walter. Walter, dimmi, vai. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Senti, tutti ce l'hanno con questi immigrati, tutti ce l'hanno con la vedova e quant'altro, però di quel campione... No, tutti, attenzione, tutti, che vuol dire tutti? Tutti, nel senso, sento tanta gente... Molte persone che intervengono sono incazzate perché dicono gli italiani, diciamo, non vengono riservate le stesse attenzioni che il governo ha riservato alla vedova, la vedova del nigeriano, eccetera, eccetera. Ok. Però nessuno pensa che quel campione... Molti che si sono messi il lustrino dell'antirazzismo, hanno sfruttato questa cosa per fare una passerella, per dire no, è sempre la solita storia. I nostri governanti sono uno schifo totale, ma a partire dall'Italia, Europa e tutto, perché gestiscono questa situazione da oramai da anni, siamo stanchi, cioè c'è gente che ci mangia, che si fa i bocce, guadagna una montagna di soldi, che sta povera gente. Dall'immigrazione, nessuno, dice, non se ne frega un cazzo nessuno, proprio zero. Poi è successo quello che è successo e a questo qui diamo la medaglia, è un campione, è un curriculum vitae che non finiva più, cioè Casini che aveva già fatto tutto. Ma cioè, chi dici? Quello che ha dato il pugno? Quello che ha dato il pugno, era tenendo in galera, ma già da tanto. Io non so se in galera, aveva non poteva andare allo stadio per dei precedenti, ma non è che uno, cioè non è che adesso tutti quelli cioè che hanno il divieto di andare allo stadio debbano andare in galera. Cioè, no, però non era un campione della società, quello che voglio dire, non ci cioè, voglio e allora? Dire... Ma è un soggettone, quindi voglio dire, magari era da tenere a bada e sicuramente non avrebbe commesso quello che ha commesso, voglio sì, dire. Ma ho capito, non è che possiamo tenere a bada tutti, cioè non siamo nella società del controllo totale, cioè questo qua era un tizio che aveva dei precedenti allo stadio, non risultano altri precedenti ed era uno che tra l'altro lavorava anche poco, non... sì, però non è che doveva stare in galera, cioè, se fosse stato in galera non sarebbe successo. Che cazzo vuol dire? Chi gli vuole dare la medaglia? la cosa abbastanza incredibile che siano nati in queste ore dei comitati o dei gruppi su Facebook in sostegno di Mancini, io sto con Mancini, eccetera, eccetera. Senza sapere un cazzo. Noi che invece abbiamo una posizione sempre, come dire, ce ne fottiamo di prendere posizione, cioè diciamo la nostra, ma non è che stiamo pregiudizialmente con l'uno o con l'altro. Abbiamo cercato di capire e oggi è venuta fuori un'altra testimonianza, simile a quella che abbiamo offerto noi, di un'altra persona che ha confermato quello che diceva quella la Bachetti, cioè che a picchiare sono stati anche il nigeriano e la vedova. E la vedova. Chicca Milano, vai. Buonasera Cruciani, chiamo da Milano, volevo soltanto dire anche un'altra cosa. Quello dove è andato? Scusate, al cesso un'altra volta, ma che cazzo, sempre le 8:10 al cesso quello. Io dico allora, che è veramente incredibile. La cosa che mi ha veramente sconvolto ieri sera, oltre a questa cosa del ma non è possibile, scusa un attimo, Chicca, ti pare normale che Parenzo a un certo punto ogni sera, da quando c'è il programma sulla 7, alle 8:05 va al cesso? Perché dice che poi ho capito, ma amico mio, almeno raccontaci come va nei bagni della 7, raccontaci quanto è lunga la tua pipì. Dunque, ieri sera tu per esempio la fai sotto la doccia? La fai sotto la doccia la pipì? Chi? Tu. Io? Qualche volta. Qualche volta succede, no? Com'è? La sensazione com'è? Ottima, sì, beh, è giusto così, è giusto, no? Beh, è fisiologico, normale, c'è questa mistura, no? Questo misto tra l'acqua della doccia e l'acqua della... No, di tua produzione. Il livello di particolari, che livello? La pipì sotto la doccia è stato un grande tema della Zanzara nelle ultime settimane, ma anche un tema scientifico, importante. Non pensare che sia trash, non è trash. No, vabbè, un pochino. No, ascolta, no, zero, ti posso assicurare. Dire la mia opinione velocissimamente. Tu puoi dire quello che vuoi. No, volevo solo dire che ieri sera guardando i giornali, oltre a tutto quello che è successo, questi che si sono presentati del PD, la Boldrini, la Boschi, eccetera, eccetera, ci sono state queste interviste incredibili, tutte uguali, in tutti i telegiornali, al prete di questa comunità, il quale ha fatto politica, no? Cioè? Perché ha detto... Ma chi? Don Albanesi? Ma non lo so come si chiama, non lo so. Comunque sì, forse si chiama così. Lui. I preti ci sono tanti, pure a Fermo saranno tanti. No, comunque, quello della comunità. È morto di botte. Che sia morto per un pugno non c'è dubbio, forse è caduto, ha sbattuto un pugno, ma probabilmente la sfortuna incredibile di questo italiano che probabilmente anche tu stai con Mancini. Beh certo, ma assolutamente, ma perché? Perché? Tutti gli amici miei, ma perché state tutti con Mancini? Spiegatemi perché. Prima di tutto perché è italiano. Ma che cazzo c'entra? Se un italiano ha una testa di cazzo, è una testa di cazzo uguale. Scusa. No, basta, Cruciani. Ma basta che? Ma se uno ha una testa di cazzo, è una testa di cazzo. Prima devono venire gli italiani. Ma veramente gli italiani già ci sono. Ah, devono venire, intendi? Devono prima gli italiani e poi gli stranieri. Ma scusa, che cazzo c'entra? Se un italiano ha una testa di cazzo, un assassino, e si prova che è un assassino, cosa c'entra? Spiegami. No, certo. Prima gli italiani. Veramente colpevole. Ma veramente colpevole. Comunque l'insulto c'è stato, il pugno pure. Cioè, ma tu stai dicendo io sto con Mancini, adesso non ti nascondere, io sto con Mancini, perché? Io sto con Mancini, nel senso che innanzitutto bisogna verificare giuridicamente. No, quello è un altro discorso. Ma se tu dici che stai con Mancini, prendi già posizione. Stava camminando per la strada, questi due gli avevano detto qualcosa, lui l'italiano aveva risposto con una battuta a questa signora. Ma che ne sai? Ma che sei? Hercule Poirot, che sei? Questi qui sono dei violenti. Sono dei violenti, sì, sono dei violenti. Ti do anche delle altre testimonianze di noi signore che abitiamo qui a Milano, che molto spesso quando andiamo al supermercato scendiamo di casa. Che fanno? A me non è mai successo. Come potrebbe a Milano i supermercati sono i posti più tranquilli del mondo. Stranieri, e che fanno? Ti toccano il culo? Che fanno? Che chiedono l'elemosina ogni metro. Ti hanno toccato il culo? Che c'entra chiedere l'elemosina con l'essere violenti? Noi camminiamo, andiamo a fare la spesa, ci fermiamo con i sacchi, questi ci prendono il braccio e ci dicono... Dammi qualcosa. Ma sono stato, guardi, io sono contro l'immigrazione clandestina, sono per regole durissime all'australiana, però non diciamo cazzate. Allora, nei supermercati di Milano non succede un cazzo.

Sì, sì, sì. Se viene alle 21? Sì. A me non me ce trovo, io lo aspetto. Ho capito, ma questo qui mica sta al servizio di chiunque, oh, non è che ha pizza a casa, ha pizza express. Ho capito, ma lo so, io sono. E allora ti tenga le zoccole, che devo fare io? Io non ho chiesto niente, me lo posso anche tenere. E a me mi ha segnalato il Crux, il De Crux, il capo dell'ufficio, il De Crux. Ah, De Crux, no, io non lo conosco. Vabbè, niente, la saluto, arrivederci, grazie. È una cosa incredibile. Cioè, abbiamo beccato uno. Abbiamo beccato uno che ha confuso le zoccole coi topi. Le zoccole coi topi. Telese! Scheppino! Sì. Allora, ma mi hanno detto che sei incazzato per questi razzisti che intervengono. Madonna mia, una metà esibizionisti, l'altra metà. No, ma senti, chicca, senti. No, ma chicca. Sì, dimmi. Allora, non qui. Ho capito perché stai con Mancini, te. Spiegami perché stai con Mancini. No, ma io non è che sto con. Ma hai detto sto con Mancini, io perché è italiano, l'hai detto prima. No, guarda, ascolta, è scandaloso il fatto che. Ma l'hai detto prima, adesso ti tiri indietro, hai detto sei italiano. Ma chicca! Dai, che nei supermercati di Milano nessuno ti tocca il culo! Dai! Cosa? Ma non dire che c'è. Sei fumata, guarda che poi io abito a Milano, adesso in ma sono nata a Roma. Ma sono nata a Roma. Fermo, fermoli. Toccare il culo. Dai, ma chi è che ti aggredisce? Chi è che ti aggredisce? Spiegami. Allora, guarda, ti racconto una scena velocissima. Vai, una scena velocissima. Io faccio il nome in via Domenichino, via Angolo, via Monterosa. Via Monterosa! Qua dietro, tra l'altro, dimmi. Non lo so, comunque. Ma come non lo sai? Lo so io che è qua dietro, non lo so. Vabbè, lo so, vabbè, però, no. Vabbè, allora, tu vai di... vado a fare la spesa, esco con i sacchetti dell'esse lunga, ci sono una marea di giorno, di mattina, ci sono una marea sterminata di gente che chiede l'elemosina. Ma quale marea? Io sto qua dietro, non c'è nessuno qua. Ma tu quando ci vai? Le 7 di sera? Vacci verso le 10 di mattina. Sai come si no, dice? No, ascolta, ma qual è il problema? Spiegami, allora. No, ti racconto solo, guarda, ti faccio. No, raccontami sta roba, allora che hai fatto? Ti faccio il film, te lo vedi con le immagini, mentre te lo racconto. Allora? Esco. Questo mi fa, allora passa e fa, oddio, c'ho fame, mi dia qualcosa, io passo dritta. E che fai? E questo si mette a servizio. E dagli un euro, taccagna! No, ma se non ti dà niente! Oh, mi ha fermato, mi ha preso il braccio e mi fa, tu mi devi dare qualcosa! Ma vai, su! Quello che vuoi! Mi fa, tu mi devi dare qualcosa! Io non, Ica, io sono, ma sono... stai ridendo! Mentre ma racconti queste bischierate, ma voi non vi rendete conto, scendete nella realtà, l'Italia è diventata così, scendete nella realtà. Siamo nella realtà, purtroppo a te non te se caga nessuno, questa è ma meglio. Ma non credere per nada. Però scusami Luca, ma tu sei... Scusami Luca. Via Monterosa. No, ma no Luca, tu stai... tutti, te compresa. No. Tu stai dicendo che lei vorrebbe essere... Scusa Giuseppe. Qua è da macchina la verità, sta ridendo perché sta di dire sciocchezze! Ma no, è la verità, ma ti posso dire anche di altre persone! Ma non ho capito! Facci comunque a cena, con quello col daspo, che poi se ti dà una pizza pure a te e te la dà un italiano bianco del Ku Klux Klan, no, sei contenta! No, beh, sei contenta! No, ma spiegami, scusa, fermi tutti, Chicca, io non ho capito perché tu all'inizio della tua telefonata hai detto io sono dalla parte di Mancini perché è un italiano, non ho capito, spiegami perché. No, io sono dalla parte di Mancini nel senso che ma già il fatto di dire esattamente ma che c'entra se tu dici italiano, sono dalla parte italiano, non ti e io credo che abbia il diritto di essere giudicato esattamente come tutti gli altri. Ma chi ha detto il contrario? Se ha commesso un reato, sarà la procura, saranno vabbè, a te della morte di quello non te ne frega un cazzo, questa è la realtà, dai, della morte di quello là non te ne frega niente, dilla tutta fino in fondo, contenta. Dai, dilla tutta fino in fondo, dai. Assolutamente. No, non è che non me ne frega niente. Non te ne frega niente, sei contenta. Ma no, guarda, non mi fa scendere su questi livelli bassi di cui che voi amate fare. Ah, noi amiamo fare. Noi. Hai detto che c'è l'invasione di extracomunitari a Milano che importunano le donne fuori dai supermercati. Ma no, io... Non ho detto che mi importunano. Io ho detto che quello a un certo punto mi ha preso il basso e mi fa. Ma quello sarà un deficiente. Qualcosa. Ma scusa, ammettiamo che sia vero. Vabbè, ma ammettiamo che sia vero, allora? Ma io guarda che anche un euro, gliel'avrò anche dato altri 10. Ma allora mettiamo volte. Che è vero, allora, allora che cosa anche dobbiamo se... fare? Cioè continuare a dargli un euro e quelli te lo ma continuano se ti a chiedere. Se no te ne vai senza fare questa menata. Ma io non sto andando senza fare questa menata, ma quello a un certo punto mi ha preso il braccio e mi fa tu ridare. Ma non tagliare vai. Te vabbè, te è negro di merda che sei. Hai fatto uno e tu ci stai facendo una menata che non finisce no, più perché è, uno va al supermercato da chiesto un euro, un cazzo, ma una roba proprio, da matti, ma dai. Però ti dico che questa è una realtà, è uno è un è una faccia che c'è ed una è faccia anche che una faccia che è c'è. Ferma lì, come sei andata con la borsa Louis Vuitton al supermercato? Come sei andata? Ma che borsa Louis Vuitton? Ferma no, là, ciao. Bruciato, Giuseppe. Sei pervert, questo sei un gran pervert. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Sono a Parigi e anche la mia ragazza francese ha qualcosa da dirvi. Anch'io faccio le pipì sotto la doccia. Très bien, mon amour. Très bien. Adesso ti metto in onda altre persone, Luca, così ti puoi sfogare bene. Però... tutti la pipì sotto la doccia, però quanto ho goduto ieri, adesso ho sentito questo francese qui, quanto ho goduto ieri sera, quanto ho goduto... Siamo a Parigi. No, ma quanto ho goduto ieri sera per la sconfitta della Francia, tu non hai idea. Cioè, orgasmo. Orgasmo allo stato puro, orgasmo allo stato puro. Ragazzi, in queste volevo cose dire io... una cosa, ma volevo dire, quando posso dire una cosa sulla signora Federica? Chicca. Capisco il lutto, capisco tutto, ma uno che già ha subito Federica la perdita Raccagni, del dice, marito, Federica Raccagni, sì. Una che ha già perso, ma come fa a desiderare che ti arrivi a casa Alfano? Sì, questo è vero, questo è vero, sì. Ma anche la Boschi e Renzi in realtà, Alfano, Renzi e a Boldrini ti spari. No, ma infatti questa è l'alba. Però lei dice io perché sono... sei parentizzato, se non l'avresti detto. Io sono un po' preoccupato, non ma so che io parentizzato? Ma che sei impazzito? Il sei? Riflesso ti doveva dire vi proteggiamo signora. È meglio no, che non sia venuto Alfano, sennò altrimenti te veniva un infarto pure. Ma lei vuole... fratello, 160 euro. Che fa il fratello? Che blateri sul fratello di Alfano? Dimmi che c'è. No, fratello lavora alle poste. Viva Dio, siamo contenti tutti. Ah, fratellino. Con regolare concorso in realtà. Allora, negli ultimi giorni, ragazzi, è diventato una specie di mito sul web. Un signore che si chiama Andrea Longhi. Non lo conosce nessuno. È un ragazzino di Parma. Che fino... vieni a sentire. Che fino a qualche che è tuo figlio, tu stai chiamando tuo figlio, che fino voglio a qualche sentire a Longhi. Che fino a qualche anno fa si faceva le canne in un parco. È stato praticamente beccato dalla polizia municipale che l'ha portato in caserma o comunque in un ufficio della polizia municipale proprio nel momento in cui veniva arrestato un nero che credo che si chiami Bonsu, sì, Bonsu. Questo Bonzo è stato il protagonista di un caso di cronaca clamoroso a Parma, cioè è stato pestato in sostanza dalla polizia municipale e lui è uno dei testimoni in questo processo. È venuto fuori un pezzo esilarante in video, ma anche in audio, ma bisognerebbe guardare il video perché c'è questo ragazzo un po' in carne, diciamo ciccione lì sulla sedia, che ha un atteggiamento strafottente sia nei confronti della giuria, sia nei confronti del PM, insomma di tutti quanti, perché dice, ma io che cosa... Cioè, ma che non capite quello che ho detto io? Cioè, in fin dei conti mi avete preso perché consumavo solamente 5 euro di fumo. Allora, partiamo dai 5 euro di fumo. Che cosa ha fatto quando è arrivato al parco? Ho preso dell'hashish. Scusi? Ho preso il fumo, l'hashish. Ha comprato del fumo? Sì. Ricorda da chi ha comprato il fumo? Beh, da un ragazzo tunisino, poi a lui è del palestinese, vabbè, da un marocchino, diciamo. Ricorda quanto hashish aveva comprato? 5 euro, dai, 2 canne, euro. Dai. Della polizia municipale c'era qualcuno? Ah sì, c'erano quelli in borghese, che erano tutti straesaltati. Dopo un po' è passato anche Bonsu, cioè il ragazzo di colore, ed era tutto strappe, ma guarda, cioè era china col coso, con ammanettato il viso chinato, mi ha dato ma guardato, no, un attimo, e ho notato che era strappestato, cioè saccagnato, cioè era messo male, cioè. C'aveva un occhio che, cioè, sembrava manco avesse combattuto con Mike Tyson, vabbè, ai tempi d'oro, cioè nel senso quando proprio tirava giù di brutto. Ho sentito ancora quel negro di me, post-tap. Allora, le espressioni e le frasi che lei ha sentito le può dire, deve dire quello che ricorda. È quel negro di merda, la scimmia, quelle cose lì lo svottevano perché è nero, hai capito? Queste frasi che lei sente, lei ha fatto pure il gesto, che forse è il caso di descrivere, perché di mettere la descrizione a verbale. Il test riferiva, scusi signor giudice, che di aver sentito i vigili in borghese dire all'indirizzo di questo ragazzo di Bonzo: negro di merda, scimmia. E poi, se mi può rifare il gesto, perché vabbè, dai, ha capito, la scimmia, cioè, ok, che... Ah, è eccezionale, ragazzi. Cioè, questo qua lo dovete vedere integrale, è un pezzo incredibile. È il 2009, solo che non so per quale motivo diventa improvvisamente virale anni dopo. Con questo che fa il gesto, il modo in cui praticamente questi poliziotti trattavano male e cosa dicevano a questo Bonzu, no? Che fu un caso abbastanza grosso di cronaca a Parma anni fa. E gli dicevano le stesse parole che, tra l'altro, quello di Fermo avrebbe detto al Emanuel e alla sua ragazza. A un certo punto Luca ci descrive a Longi come si distinguono gli spacciatori dagli altri neri nel parco. Senti. L'aveva mai visto insieme allo spacciatore, a quel ragazzo? Ma assolutamente no. Cioè, poi gli spacciatori si riconoscono, lui non ce l'aveva lo da spacciatore, cioè poveretto. Quindi lei ha, diciamo, lei dice, io so. Lo vedo se uno è un marocchino spaccia, si vede dalla bimba. Ecco, ci spieghi un attimo, ecco, qual è la caratteristica essenziale di questo atteggiamento che lei dice? Le Nike, i bei vestiti, il cappellino, giacca dell'Adidas, cioè vestiti da fighetto, cioè vabbè, si vede, dai. Cioè, hai capito? Gli spacciatori si riconoscono da come sono. Dalle Nike. E poi dice: ma questo Bonzu era un palo o no? Tanto qualcuno ci dice che chiaramente un giorno in perdura l'ha mandato a processo concluso. Vabbè, è chiaro che è così. Però è anche strano come qualche cosa diventi virale all'improvviso, no? Lei non lo riteneva uno spacciatore? Ma assolutamente. Lo poteva ritenere un palo? Ma neanche. Neanche? Un palo è sempre uno che c'entra con lo spazio. Neanche... Poi lì i pali, cioè, non, cioè, troppi film americani, il palo, lì c'è, cioè, entri, prendi il fumo e vai. Il palo, ma quale palo? Entri, prendi il fumo e vai. Cioè, ma la cosa incredibile... Nelle scuole! No, va ma... mandato nelle scuole! No, ma non va mandato nelle scuole per un altro motivo. Quella poveretta! No, ma per un altro motivo va mandato nelle scuole. Va mandato nelle scuole perché questo ragazzetto, che adesso dice anche di non fumare più perché il fumo gli ha dato la testa, eccetera, eccetera, gli ha provocato dei guai, in realtà viene fermato dalla polizia municipale perché ha 5 euro di fumo. Cioè, questo qua passa dei guai perché lo prendono due canne in mano. Per questo bisogna legalizzare tutto. Ma senti, lui che a un certo punto litiga con l'avvocato, col giudice, perché si stufa di stare là delle domande che spesso si fanno nei processi. Allora le devo fare una contestazione. Va che domani. A domani. Io chiedo sì. Che almeno nei confronti dell'avvocato sì. Ci sia un rispetto. Almeno Longi, nei confronti dell'avvocato. Signor Longi, la prego, questo è formalmente. Mi scusi. Longi, senta me. Lei deve rispondere, perché è obbligato a rispondere alla legge. Sì, ho capito, però non posso mica. Cioè... Signor Longi, io le ho detto che se lei ha dei problemi. Non ho bisogno di una pausa, avrei voglia di finire. Non ne può più! Non ne può più! A Longi numero uno assoluto. Vabbè, ragazzi, andiamo, dai. Stefano da Roma, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, dovete smettere di essere così rompicoglioni bonisti, insomma. Dai, Io bonista. Ma come si chiama? È arrivato sto coglione di Luca. Ma chi è sto coso? Luca Telese, non di Luca, è il governo. Come non mi piace, è un coglione. Perché? No, perché è un coglione? A questo, a quell'altro, che ti tocca il culo. Se sta a raccontare una cosa, no, la signorina di Milano. Ma sta a raccontare una testina, cazzata, sei una testina di cazzo, dai retta a me. Sei una grande testina di cazzo. Dai retta a me, te non vivi nella realtà. Ma tu hai idea in che condizioni stanno le nostre città? Ma di che cazzo stai a parlare? C'è un povero idiota, dai retta a me. Una cazzata è una cosa vera, no, la capisci. No, non ho capito una cosa, scusami Stefano. Non approfittare delle persone che si trovano in certe situazioni davanti al supermercato, poi Louis Vuitton, questo. Ma uno se compra una borsetta che se vuole comprare, allora io non vado al supermercato con la Louis Vuitton, mia moglie. Stefano, innanzitutto... A coglione, ma che ti sto sostando? Stefano, stai tranquillo, io a me buonista... Perché se me sembra che noi dovevamo venire vestiti a... Fermo tutti, fermi tutti, adesso mi incazzo, Stefano, allora... No. Adesso mi cazzo, Stefano, a me buonista non lo dici perché io non sono affatto buonista e ho detto al contrario, sono per la contro il mio. Io fermo un attimo, io sono contro il macellaio. Allora io sto dell'idea che la signora si è trovata sicuramente in imbarazzo, perché da tutte sto rotta io. Ma guarda, quale premetto, signora stava a ride? Dai! No, parla di un altro. Stava a parlare della signora, la moglie del macellaio. Allora? Allora? Allora, nessuno mi ha telefonato che è successa sta cosa. Nessuno, è giusto, è da questo ragazzo che premetto, quello che ha dato il cazzotto sicuramente gli è andata male perché è caduto di qua e di là, ma è stato un coglione. Sicuramente è stato. Beh, io so di destra e sicuramente non vado in giro a dire scimmia questo e quest'altro. Stefano, io non ho capito una cosa, perché la cosa che mi dà fastidio lì tutti in bella mostra, Boldrini e questo e quest'altro. Sì, anche a me questa cosa, questa cosa. Cazzo, tutto qua, ti infila se mettono le facce di cazzo, capito? La faccia di cazzo, vabbè, un altro discorso, la faccia di cazzo. No, perché lì ormai tutti quanti presi prendiamo tutti e portatela a casa tua, pigli tutti, no? Però stai tranquillo, a me buonista, a me buonista non me lo dici perché io sono per leggi australiane sull'immigrazione, figuriamoci. Però cosa c'entra questo? Cosa... Anche in Italia sono australiani. Ma cosa c'entra questo con quello che è successo? Cosa c'entra quello? Gli italiani ci vogliono portare al discorso, ospitiamoli tutti perché sennò passiamo dalla parte del razzista. Io non sono razzista, mi reputo uno di destra, ma mi sono rotto veramente i coglioni perché la mattina non riesco nemmeno a prendere il treno. Ma vai, Stefano, dove? Non riesci a prendere il treno? Da Pomezia per arrivare a Roma e poi prendi la metropolitana e poi prendi il mezzo. E che fai? Che ti succede? Che ti succede? Oh, ma tu hai... Ma forse no, ma che ti succede? Voglio avere una domanda. Che ti succede? Ma che cosa succede? Che ti succede? C'è di tutto. Si levano le scarpe, fanno di qua, fanno di là. Io ho 250 profughi davanti a casa. Cioè, capito? Me l'hanno 250. 250. Vabbè, ma perché lo pigli per il culo così, Luca? Perché lo pigli per il culo? 250 sono quanti sono 250. Che cos'è lui? Che cos'è? Stefano, non ho capito. È una grande testina di cazzo. Perché? Una grande testina, bello. Ma no, ma tu scherzi sempre su tutte. La gente si trova nella situazione che quando già si alza la mattina sta in difficoltà, ma non per il lavoro che fa. E che cosa fa? Vede il nero, vede il nero nelle metropolitane e si incazza. E che vede il nero portafoglio su metropolitana, ma te l'ha presa male la metropolitana a Roma. Beh, alle 8 di mattina all'ora di punta che succede? È pieno dei negri che rubano portafoglio, i zingari, che tutto di tutto. Adesso i zingari di che tutto c'entrano, è un'altra cosa i zingari di tutto. No, ma noi siamo buonissimi, andiamo. Che dice questo? No, non so che sta dicendo, sta parlando col figlio, non lo so. No, ma il discorso sta che noi saremo i nostri, i zingari autoctoni, i nostri, c'avemo quelli che vengono da vabbè, fuori. Ma questo cosa c'entra con quello che è successo, amico mio? Ma quelle barche ci avete ridotto le città in una merda assoluta. Scusami. La gente si può anche rompere i coglioni. Stefano, ma cosa c'entra con quello che è successo? Dicendo quello che è successo, sicuramente la persona è sbagliata. Ma più andando avanti, queste cose si verificheranno sempre di più. Vabbè, Stefano, ciao. Carlo, Bologna, vai. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Allora, innanzitutto, il Jeep, la notizia di pochi minuti fa, non ha creduto alla versione della moglie del signore nigeriano che è morto. Sì. E ha detto che il nigeriano ha reagito brandendo il palo. Ma questo già più o meno lo sapevamo. E questo comunque, il Jeep, la notizia è ufficiale. Io però volevo dire un'altra cosa, ed era questa. Prima di dire che gli italiani sono razzisti, di fare tutte queste manifestazioni No, la cosa mi fa impazzire con la Chiang che dice razzismo per prendere voti, ma anche sono andati per prendere voti quegli altri. Io però vorrei dire solo questo, attenzione che le vittime ogni giorno ci sono, da una parte e dall'altra. Ma non sono problema, due parti, qual è una parte dall'altra? Quali sono le due parti? Il problema è che quando succedono che muoiono dei nigeriani, eccetera, è un problema di razzismo, quando muoiono gli italiani no. E allora? Allora pensiamo un attimo se questa è una cosa giusta. Beh, quando muoiono gli italiani non è per razzismo, è perché non muoiono per razzismo, non muoiono mai. Muoiono per rapine, per violenze sessuali ai minori, muoiono i carabinieri, eccetera. Però sono delitti ai quali nessuno va ai funerali. Tu dici, tu contesti, tu stai contestando il fatto che le istituzioni sono andate ai funerali di questo Emanuele, giusto? Sì, esatto. Cioè, proprio appena hai visto quegli altri, si è messo a vomitare. Appena hai visto... Non ho vomitato, ho riflettuto su quello che è successo, ho sentito, ho letto e dico, non è corretto quello che sta succedendo. Ho capito perché... benissimo. Antonio da Genova. Antonio, dimmi. Antonio. Eccomi. Vai, veloce, vai, vai. Ho mezzo che sto qua e sono stanco, stavo a mangiare. Dimmi, che ti stai a mangiare? Ho mangiato dei pomodorini ripieni di tonno, maionese, poi c'ho dei peperoni con poi? Pan grattato, quelle cose lì, poi l'ovetto. L'ovetto, poi? Fagiolini, sì, due fagiolini. Tutta verdura? Tutta verdura? Sì, oggi sì, siamo sul vegetariano. E che ti sei bevuto insieme? Ah beh, c'ho del gutturnio qua fatto da contadino, che è uno spettacolo, guarda. Vabbè, vai veloce, vai, vai, che vuoi dire? Allora, ti volevo dire che sono già con la Federica io, perché... Insomma, tutti i torti quella donna non ce l'ha, cazzo. Cioè tu dici, il governo assente con lei, invece presente in massa, bravo, per il nigeriano, questo hanno è tutto. Hanno bloccato la tigre perché sono nella merda, sono con l'acqua alla gola, allora devono farsi vedere che sono giustizialisti, che sono per la giustizialisti, gente. Ma no. D'accordissimo. No, a me sta bene, beh sì, vogliono giustizia per la donna, che sono d'accordissimo, quella donna lì va trattata... con i guanti bianchi, perché dopo tutto quello che ha passato... Ho capito Antonio, devo chiudere. Luca, ci sentiamo domani, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.